9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori. Beh, oggi tutti si aspetteranno che io di solito spesso, anzi, annuncio il santo. Oggi è San Valentino, quindi è un santo particolare, che volete che vi dica, cercate di passarlo bene e di farvi perdonare tutto ciò che infliggete al compagno, alla compagna, a chiamate nel resto dell'anno. Questo è il compito che vi assegno. È chiaro che se uno dovesse parlare da cittadino e dovesse pensare a il compagno che abbiamo obbligatorio come cittadino, cioè lo Stato, avrebbe da farsene perdonare lo Stato oggi, però sapete com'è, con lo Stato è difficile avere un rapporto d'amore, fin troppo tentare di non averlo di odio, e quindi questa anche giornata speriamo che celebri almeno un giorno l'anno una specie di armistizio tra noi cittadini e lo Stato. L'argomento della puntata è il seguito di una puntata di 2 settimane fa, esattamente lunedì di 2 settimane fa, ricordate il giorno in cui il Corriere della Sera pubblicò una pagina a pagamento, io tra i firmatari, ma insomma erano 100 italiani molto più autorevoli di me, c'erano praticamente tutti i capi aziende delle più importanti imprese delle TLC e della comunità ICT italiana, da Telecom Italia, Fastweb, Vodafone, e poi c'erano i capi di tantissime aziende del settore internet, poi c'erano intellettuali, attori, artisti, insomma una variegata compagnia, però molto rappresentativa del mondo internet e del mondo della telecomunicazione italiana, che chiedeva al governo attenzione per un'agenda digitale del nostro paese analoga a quella di altri grandi paesi, praticamente tutti i paesi avanzati, in linea con le indicazioni dell'agenda digitale europea lanciata dalla Commissione europea. E i temi sono naturalmente quelli che ben conoscete, ma li richiamo: come coprire il digital divide, cioè il minimo praticamente di banda per poter consentire un accesso a internet, ma soprattutto in prospettiva quello di non fermarsi solo alla copertura del digital divide, ma di aprire il più possibile a prospettive di reti di nuova generazione, la banda ultra larga, abbandonandosi dietro le spalle l'idea che in Italia non ci sia una richiesta, cioè appunto una domanda di servizi adeguati a rendere economicamente sostenibili gli investimenti sulla banda ultralarga, perché al contrario noi abbiamo bisogno della capacità di trasmissione in upstream e downstream, perché è quello che poi consente il fiorire e moltiplicarsi dell'offerta, è quello che solo può consentire uno scatto di produttività a una percentuale elevatissima di piccole imprese italiane che continuano ad avere praticamente internet sì come un computer attaccato, ma niente di più. Io ricordo a tutti che solo il 5% delle imprese italiane, comprese le grandi, grandissime e fino alle più piccole, il 5% vende online. Stiamo parlando di percentuali di arretratezza che implicano un mancato abbracciamento di questa rivoluzione orizzontale e verticale, che sono le nuove tecnologie nella gestione del rapporto con i fornitori, nell'ottimizzazione del capitale circolante, cioè del magazzino, ecco, in tutta la filiera dell'organizzazione, della logistica, della produzione, della distribuzione e di come si fa miglioramento commerciale. Quel giorno lanciammo l'appello e a distanza di 2 settimane ci torniamo sopra, perché nel frattempo qualche cosa si è mosso. Ricordo a tutti che una delle richieste ovviamente era quella di tornare sull'argomento dei famosi 800 milioni che erano stati stanziati l'anno scorso, ricordate, sul digital divide. Ne è stato annunciato il recupero di 100 milioni di quegli 800 all'ultimo consiglio dei ministri, in cui si è tornati a prendere in mano l'agenda economica del paese, la famosa frustata. Oggi per chi volesse approfondire al volo sul supplemento economico Affari e Finanza di Repubblica c'è una pagina molto critica esattamente su quei 100 milioni di cui è stato annunciato il ritorno, e il titolo dell'articolo di Stefano Carli su Affari e Finanza è: la banda larga si è ristretta a 100 milioni, questa volta arriveranno ma un terzo sparirà. Molto critico, il mio commento è che meglio poco che niente, per così dire. E poi abbiamo appreso per bocca del ministro Paolo Romani nella conferenza stampa alla fine del Consiglio dei Ministri della settimana scorsa che si è aperta anche un'altra prospettiva, e cioè finalmente la Cassa Depositi e Prestiti, lo sapete che ha cambiato statuto, nel frattempo ha la raccolta postale garantita ed è diventato uno strumento per alcuni interventi pubblici, ma che non fanno rilievo per il debito pubblico italiano, perché per convenzione condivisa all'interno dell'Unione Europea la Cassa Depositi e Prestiti non sta nell'ambito del debito pubblico, quindi può intervenire, per così dire, con garanzia di denaro pubblico o anche con equity o finanziamenti diretti, ma non fa deficit e debito pubblico aggiuntivo. E Paolo Romani ha appunto annunciato che la Cassa Depositi e Prestiti è finalmente pronta, sarebbe finalmente pronta anche a mettere equity, cioè capitale di rischio, e finanziamenti diretti alla società per le reti di nuova generazione, cioè la banda appunto larga e ultralarga, di cui, fine della mia introduzione, dopo un paio d'anni di discussione, dopo il rapporto Caio, nel dicembre dell'anno scorso è stato annunciato e sottoscritto un memorandum of understanding, quindi una generale convergenza di intesa tra tutte le aziende del settore italiano, perché il punto, ve lo ricordo, è quello di verificare se esiste una possibilità di condividere insieme ciascuna di queste grandi società, Telecom, che come sapete è l'ex monopolista che tende a ottimizzare il ritorno della sua rete in rame per la DSL, Fast, che è quella che ha realizzato la più grande estesa invece rete in fibra, e che poi di fronte alla prospettiva delle difficoltà eccetera eccetera ha un po' rallentato, ma insomma ciascuno per la sua specializzazione, per il tipo di infrastruttura su cui ha investito, mettersi insieme, perché la prospettiva è comunque quella di compartecipare a una tale estensione della offerta, per cui la domanda che si genererebbe, i volumi, i valori, le revenue, quindi gli incassi, sarebbero tali da rendere sostenibile questa società condivisa, che è un po' rimasta sulla carta, e ora abbiamo l'annuncio che Cassa Depositi e Prestiti potrebbe essere disponibile a metterci capitale di rischio e finanziamenti. Su questa novità e in generale anche su come e quanto il governo poi nella parte in cui direttamente può agire cambiando le cose, quindi nella digitalizzazione della pubblica amministrazione, nel suo rapporto con il cittadino, abbiamo oggi chiesto di fare il punto per la parte quindi pubblica e per la parte invece privata e imprese con due protagonisti della vicenda, e quindi abbiamo con noi qui il ministro Renato Brunetta, il ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, che ringrazio e saluto. Buongiorno ministro Brunetta. Buongiorno, buongiorno. E Stefano Parisi, che è il presidente di Astel, di Confindustria, l'associazione che quindi allinea la filiera di tutte le più grandi imprese interessate. Buongiorno dottor Parisi. Buongiorno. Allora, io comincerei da Parisi, nel senso che chiederei a lui questi due impegni, Cassa Depositi e Prestiti per la rete NGN, i 100 milioni, e poi anche un commento su tutto il fiorire che si è riletto sui giornali dopo il nostro appello, il fiorire di iniziative locali da Trento a Firenze eccetera eccetera, che da una parte hanno la loro importanza per la copertura del territorio, dall'altra fanno un po' sembrare che in Italia poi la risposta all'offerta di nuove infrastrutture eccetera eccetera debba venire praticamente gratis, e questo fatto del gratis e solo con i denari pubblici non è neanche detto che sia buono. Ma insomma, rispetto ai due annunci, ai 100 milioni e alla prospettiva che CDP entra in campo, che dice Parisi? Beh, sicuramente è un dato molto positivo, perché si aspettava da tempo sia questo investimento, questo contributo del governo sul digital divide, che l'ok della Cassa Depositi e Prestiti a intervenire sulla futura società della fibra. Sono tutti e due passi molto importanti, per ora sono stati annunci, speriamo, siamo sicuri però che questi qui andranno a concretizzarsi nel più breve tempo possibile. Non enfatizzerei troppo il ruolo di questo appello, nel senso che sicuramente è stato un momento importante, però ecco, molte delle iniziative di cui abbiamo parlato, da quello che abbiamo visto a Trento, a iniziative locali, ma la stessa agenda digitale su cui il governo, ne abbiamo qui il ministro Brunetta, sta lavorando da molto tempo, prescindono dall'appello, sono arrivate prima e sono sicuramente delle iniziative che stanno pervadendo un po' tutta la nostra attività economica ed amministrativa. Poi sicuramente il ministro Brunetta ci dirà meglio che cosa sta succedendo. Però non siamo sicuramente al palo, è un paese che sta muovendosi molto in questa direzione. Diciamo così che abbiamo due problemi fondamentali, ma abbiamo anche prima di tutto degli asset fondamentali. Noi oggi fra i paesi europei abbiamo la più grande rete in fibra, quindi non è vero che siamo indietro, è un paese che sta offrendo 100 mega sia due operatori alternativi, uno Telecom Italia e l'altro Fastweb, che stanno offrendo 100 mega in molte città italiane, è una cosa che è in pochi, ancora presente in pochissimi paesi europei. Quindi insomma direi che noi non dobbiamo pensare che sia tutto negativo, anzi ci abbiamo un'offerta importante e ci abbiamo purtroppo una metà del paese che vive nel web. Il problema è che abbiamo un'altra metà del paese che non vive nel web, e non è soltanto un problema di digital divide, ma c'è una divisione sociale nel nostro paese purtroppo data soprattutto, ma anche da altri motivi, soprattutto dall'anzianità della popolazione, per cui non tutti utilizzano, anche se stanno in zone, non sono in zone di digital divide, non tutti utilizzano il web per i servizi della pubblica amministrazione, per gli acquisti, per fare l'e-commerce, per tante altre attività. Questo è un problema importante, perché è un problema che riguarda, che bisogna in qualche modo cercare di spingere questa parte della popolazione a usare il web, perché come ha detto lei all'inizio, la produttività del paese, i benefici sono enormi, anche occupazionali e di crescita, e quindi dobbiamo assolutamente andare in quella direzione. Certo, quello che preoccupa spesso è un po' di miopia, un po' di strabismo che c'è, purtroppo anche, devo dire sinceramente, siamo tanti anche tra i firmatari del medesimo appello. Lo strabismo deriva dal fatto che il web e internet sono un'infrastruttura molto costosa che il paese si deve dare, davanti alle aziende di telecomunicazioni c'è una montagna di investimenti da fare, sia nella telefonia mobile che nella telefonia fissa, sia nelle reti mobili con la LTE, sia in internet con gli investimenti in fibra che sul digital divide, e questi investimenti saranno tutti investimenti privati, se non poche cose, appunto forse questi 100 milioni di cui si sta parlando, e sono investimenti privati. Tuttora le aziende di telecomunicazioni italiane fanno 6 miliardi di investimento all'anno da molti anni, ovviamente contribuendo allo sviluppo del paese. Dobbiamo smetterla di chiedere, di propagandare internet gratis in giro per le città italiane come se fosse un diritto democratico che tutti devono avere. È una enorme sciocchezza, e su questo punto credo che sia un tema molto delicato su cui la politica deve reagire, perché dire internet gratis dato dalle province e dai comuni vuol dire fare concorrenza sleale con i soldi pubblici, statalizzare uno degli strumenti invece più privati che possono esistere, che è quello appunto dello sviluppo delle reti di nuova generazione, ai quali privati è richiesto questi grandi investimenti, ma è richiesto per poterli finanziare di avere i ricavi che derivano dalla gestione di questi servizi. Aspetti, la interrompo. Che deve essere superato. La interrompo perché sono sicuro che su questo noi avremo una scoppiettante reazione del pubblico, che già sento arrivare, perché invece la linea un po' che passa nel nostro paese è che si tratta assolutamente di un diritto, per così dire, di una codificazione della nuova sfera del diritto resa possibile dagli avanzamenti della nuova tecnologia, di un elementare empowerment, come si dice col gergo tecnico inglese, cioè dell'espansione semplicemente di una sfera del diritto di espressione, l'articolo 21 della Costituzione applicata al web, per cui invece sarebbe una classica dimostrazione dei fallimenti di mercato, il fatto che poi non c'è l'ottimizzazione possibile nell'offerta delle infrastrutture capaci di coprire almeno digital divide, cioè 2-4 mega almeno, e a maggior ragione poi per internet ad alta velocità. Di qui la necessità quindi che lo Stato, il pubblico, ci metta del suo, o come garanzia o come intervento di capitale diretto. In effetti degli interventi che sono in corso, tipo quello della Digital Divide nella regione Lombardia, dove ci sono 40 milioni circa di capitale pubblico messo sul tavolo della regione Lombardia e poi altrettanti messi da operatori privati che hanno vinto la gara, vede insomma pacchi decine di milioni pubblici spesi esattamente con questa filosofia, ed è una filosofia un pochino discutibile. Cosa diversa è quello che lo Stato deve fare per migliorare e per promuovere attraverso quella leva il potenziamento dell'interfaccia diretta tra cittadino e pubblica amministrazione e la digitalizzazione della pubblica amministrazione stessa, nella quale il ministro Brunetta ha ricordato in questi giorni noi siamo all'avanguardia in Europa. Prego, ministro. Intanto buongiorno, fatemi distinguere intanto due cose. Una cosa è la rete, l'infrastruttura, chiamiamola banda larga. Altra cosa è il traffico, i servizi che percorrono questa infrastruttura. Usando una similitudine, una cosa sono le autostrade, l'altra cosa sono le automobili o il traffico, i camion che attraversano, percorrono queste autostrade. Allora, vediamo l'una e l'altra. Per quanto riguarda l'infrastruttura, ad oggi sono coperte da banda larga circa 55 milioni di italiani, praticamente la quasi totalità. Mancano ancora 5 milioni di italiani e quei 100 milioni di euro di cui abbiamo approvato la spesa nell'ultimo Consiglio dei Ministri dovrebbero servire a coprire questo ultimo pezzo che viene chiamato Digital Divide, che sono soprattutto le aree di montagna e così via, e lì non necessariamente con la fibra certamente, ma con il wireless, con le antenne, con sistemi, e tra l'altro molte società, molti operatori privati con risorse private lo stanno già facendo. Non vorrei citare Vodafone, ma la cito lo stesso, la sua operazione, ma tutti gli operatori stanno facendo la stessa cosa, per cui il mercato sta già pensando a queste aree. Quindi noi potremmo dire che nell'arco di un anno o due l'intero territorio nazionale è coperto da quella che viene chiamata banda larga, chiamiamola universale, dentro cui possono passare tutti i servizi o tutto il traffico basico, chiamiamolo così. Altra cosa da dire, Parigi ha perfettamente ragione, in tutte le aree metropolitane italiane, o quasi tutte, l'offerta è ben superiore ai 2-4 mega universali, chiamiamoli così, ma ci sono quasi tutte le aree metropolitane sono coperte con infrastrutture che danno 20, 40, 50 mega, e questo, come dire, ci porta all'avanguardia in Europa come infrastruttura. Potremmo fare di più, certamente non siamo il Giappone, certamente, però non siamo neanche l'ultimo arrivato, sia come banda universale, chiamiamola così, per non confonderci, banda universale che garantisce a tutti, eccetera, eccetera, sia come banda potente, banda da oltre i 20, 40, 50 mega, soprattutto nelle aree metropolitane. Primo punto, quello che si è deciso al Consiglio dei Ministri è di, nell'arco di un anno o due, arrivare al 100% con la banda universale e di, al 2020, arrivare a 100 mega praticamente per tutto il sistema urbano o delle grandi infrastrutture urbane, quindi moltiplicando per 2 o per 3 l'attuale disponibilità di infrastruttura. Questo per quanto riguarda l'infrastruttura. Seconda parte che io considero più problematica è cosa ci passa dentro l'infrastruttura. Allora, e qui rompiamo un luogo comune. Allora, al momento lo Stato, in tutte le sue articolazioni, centrale e periferico, è più avanti del privato. Cioè il pubblico è più avanti del privato, cioè il modo di utilizzare l'attuale infrastruttura è molto più denso, intenso nella parte pubblica che nella parte privata. Questo lo sta a dimostrare, per esempio, lo citava Giannino, il benchmark europeo che ci è stato consegnato nelle settimane scorse, nei mesi scorsi. Al 2010 il nostro paese, per quanto riguarda l'e-government, vale a dire i servizi pubblici che passano attraverso le infrastrutture internet, bene, il numero e la qualità di questi servizi pubblici a disposizione delle imprese e delle famiglie in Italia sono i primi o tra i primi in Europa. Sanità, giustizia, scuola, burocrazia, fisco, eccetera, eccetera. Il che non vuol dire che tutto è il 100%, ma che se facciamo una comparazione con gli altri paesi europei, noi in questa comparazione siamo i primi. Quindi l'italiano, il cittadino non deve dire: ah, ma io l'altro giorno ho cercato e non ci sono riuscito. Ecco, vero. Probabilmente però il suo collega francese o il suo collega spagnolo ci riesce ancora meno. E quindi vuol dire che nei confronti dell'e-government, si chiama così, noi siamo relativamente i primi, e lo Stato, che tra l'altro la pubblica amministrazione rappresenta circa il 40-50% del traffico, cioè della roba che passa dentro la rete, cioè i servizi che la pubblica amministrazione fornisce, o i servizi che la pubblica amministrazione usa per dialogare con se stessa, i comuni con lo Stato, i comuni con le regioni, eccetera, eccetera, o della pubblica amministrazione con le famiglie e le imprese, o le famiglie e le imprese con la pubblica amministrazione, rappresentano circa il 40% di tutto il traffico che gira dentro la rete. E qui è il paradosso. Bene, in termini relativi lo Stato, la pubblica amministrazione è più avanti del privato. Cioè, io sto facendo una battaglia forsennata con i liberi professionisti, giornalisti compresi, per dotarli di posta elettronica certificata, e siamo ancora, per la quale hanno l'obbligo tra l'altro di allacciarsi, di uso, eccetera, eccetera, e faccio una fatica boia per costringere o per convincere i milioni di liberi professionisti, che dovrebbero essere la punta di diamante rispetto alla posta elettronica certificata, all'uso della posta elettronica certificata, perché molti ordini, molte categorie di liberi professionisti questo non hanno ancora fatto. Sto facendo una fatica boia con il mondo delle imprese, soprattutto le medio-grandi, e che non rispondono ancora al massimo, come potrebbero, rispetto ancora una volta alla posta elettronica certificata. Hanno risposto meglio gli artigiani, che stanno dotando le loro centinaia di migliaia di imprese di posta elettronica certificata, e così via. E cioè, allora, la interrompo un secondo perché c'è la pubblicità e ripartiamo esattamente di qua, perché la questione è: come mai, cosa si può fare, da che cosa dipende, e soprattutto come si può dare una risposta in futuro, perché il privato, il mondo dell'impresa, su questo non resti a percentuale di utilizzo, di riorganizzazione, cioè, intorno a internet e alle nuove tecnologie, alle ICT, così singolari, cioè come quelle dei numeri che ci dà adesso il ministro, ma come quelle di ogni numero confermato poi anche dai rapporti di Confindustria. Quando dicevo prima che l'e-commerce lo fanno il 5% al totale delle imprese italiane, la dice lunga. E su questo sentiamo, poi ripartiamo sia da Brunetta che con Parisi. Mi interessa poi anche capire, dopo la pubblicità, il giudizio che danno entrambi su questo ruolo della Cassa Depositi e Prestiti. Sarà un ruolo di garante per capitali privati? Sarà un ruolo di intervento diretto? Intanto gli annunci pubblicitari. Eccoci tornati in studio, riprendiamo con il ministro Brunetta sul punto che lui testimoniava, dicendo: sto facendo una fatica boia proprio con le imprese. È un po' singolare, ma per esempio, facevo l'esempio della posta certificata, mi rispondono meglio prima, capendo più rapidamente gli artigiani, organizzando meglio la propria risposta di quanto mi capiti con le imprese. Le percentuali, in effetti, dell'utilizzo dei servizi dell'ICT nelle imprese italiane devo dire, per ogni ordine di classe dimensionale comparata, testimoniano un'elevata arretratezza. Questa volta non lo chiedo al ministro, lo chiedo all'economista del lavoro. Secondo lei, nella stratigrafia delle imprese italiane che ci viene consegnata dai diversi studi e sondaggi, questo dipende da che cosa? Dal fatto che le imprese italiane in media non hanno il capitale umano già formato, capace di portare dentro l'organizzazione d'impresa la conoscenza di quanti salti in avanti si possono fare, di margini, utili di produttività, grazie alle nuove tecnologie, oppure dipende dal fatto che poi rispetto al circolante delle imprese italiane la parte dedicata all'investimento è più concentrata sul miglioramento diretto della filiera dei processi e prodotti? Da che cosa dipende, secondo lei, il fatto che l'impresa italiana si mostra meno reattiva? Non dipende intanto dal punto di vista finanziario, perché queste operazioni costano poco, anche qui è un luogo comune. Se un'impresa, per un'impresa dotarsi di PEC non costa nulla. Dal punto di vista dell'investimento specifico, costa un po' di più dal punto di vista culturale e organizzativo, dotarsi di PEC e non lasciarla lì come un trofeo, ma usarla vuol dire cambiare la mentalità. Ecco, qui c'è un problema nella mentalità, la cultura, che è in parte funzione della dimensione, imprese piccole e piccolissime, e in parte la tradizionalità della loro attività sul mercato, e in parte anche dalle loro reti organizzative. Di fronte alla rete della Confartigianato, io cito i nomi, che è, come dire, molto evoluta e che ha pensato di dotare tutte le proprie imprese, anche con un piccolo investimento, 700.000, 1 milione, 2 milioni di imprese artigiane, di posta elettronica certificata, tra l'altro anche per dialogare con le stesse imprese, per ragioni sindacali. Lei pensi, per un'organizzazione sindacale, dal centro, a Roma o dovunque sia, o dal centro regionale, poter ragionare, mandare comunicazioni, formazione, istruzioni, ricevere risposte in tempo reale, a costo zero, con tutto il mondo, il proprio mondo di iscritti, che sono centinaia di migliaia o milioni di iscritti, a costo zero, già questa cosa dovrebbe far saltare l'organizzazione, gli investimenti, eccetera, in senso positivo, perché questa cosa ti consente un dialogo continuo, pensiamo dal punto di vista fiscale, formativo, delle varie circolari, gli adempimenti burocratici, antincendio piuttosto che adempimenti di tipo ambientale e così via. Io voglio far sapere a 3 milioni di miei iscritti che c'è un nuovo adempimento di tipo ambientale da realizzare, eccetera eccetera, faccio la PEC e tutti questi la ricevono, la aprono, mi rispondono, mi chiedono delle lucidazioni, il tutto praticamente senza costi. Pensiamo solo questo prima che l'e-commerce. E allora la potenzialità, dico solo un oggetto, della PEC, che poi vuol dire PEC con il fisco, PEC con l'INPS, contributi, PEC con il tribunale, PEC con l'ufficio urbanistica del comune, cioè tutto il dialogo, l'intera gamma di qua, tutti i servizi pubblici a qualunque livello, centrale, servizi pubblici, certo, eccetera eccetera, diventa una cosa straordinaria di cambiamento e di evoluzione. Ecco, cosa si frappone all'uso di questo? La testa, la mentalità, l'età, certi luoghi comuni, non certamente i costi, perché tutte queste cose paradossalmente costano pochissimo, quasi niente, costano molto di più invece dal punto di vista culturale. Sentiamo su questo cosa dice Parisi a Stel Confindustria. Io mi permetto anche di aggiungere, non è che per caso c'è anche una qualche responsabilità degli grandi sviluppatori di prodotti software per le imprese nel non sapere inseguire bene il mercato della piccola impresa italiana, non saper offrire a chi magari non ha dentro il recinto di impresa persone giovani già formate, già dentro il mondo del nuovo tecnologie della comunicazione e dell'informazione, e però non è in grado neanche il mercato dei grandi sviluppatori di prodotti software per l'impresa di andare lì e tentare di coltivarsi il mondo della piccola impresa, spiegando loro: guardate, vi do questo strumento, questo tool apposta per voi, con cui potreste ottimizzare la gestione personale del magazzino, le vostre tecniche di vendita. Perché a volte si ha un po' l'impressione che sia un mondo, quello dei grandi produttori di software per l'impresa, tutto focalizzato sulle grandi, le grandi delle TLC, oppure le grandi imprese per la gestione dei propri server, dei propri sistemi. Insomma, c'è una colpa specifica delle imprese su tutti questi argomenti? Rubretta dice un problema di testa, nella sua esperienza? Ma insomma, io non farei una distinzione tra buoni e cattivi, o tra chi ha, o tra pubblico e privato, perché siamo in una fase di grande cambiamento, è una grande transizione. Ovviamente ha, come al solito, delle resistenze, la sta vivendo sulla sua pelle Brunetta con i medici per i certificati, e la viviamo tutti i giorni noi in tanti ambienti di lavoro e non rispetto a questa resistenza. Quindi secondo me vanno un pochettino analizzati vari problemi. Un primo problema grosso che abbiamo in Italia, ripeto, è quello dell'età. E quindi noi abbiamo la forza lavoro dentro le aziende spaccata in due, tra coloro che sono nativi di internet, che sono stati, che hanno intorno meno di 40-45 anni e che sono nati nell'ambiente di internet, e coloro che non hanno mai visto. Questo è un problema che fra 20 anni, 15 anni sarà risolto, ma nel frattempo però dobbiamo affrontarlo e gestirlo con una certa attenzione, perché ovviamente sono due mondi completamente diversi che addirittura staccano anche in metà il paese. Questo è un primo problema molto grosso. Il secondo problema molto grosso: abbiamo ancora delle norme, una struttura di norme, ne dico una per tutte, che è una norma dello Statuto dei lavoratori sul controllo a distanza, che è fatta, come Renato Brunetta sa bene, negli anni 70, e che è assolutamente obsoleta, perché vieta alle aziende di fare controllo a distanza sui lavoratori quando ormai la rete in qualche modo ha una capacità di controllo sulla produttività delle persone, con la quale dobbiamo fare i conti, perché non possiamo pensare che è vietato l'utilizzo degli strumenti di valutazione, di misurazione della produttività, così come sono oggi possibili con l'uso della rete, con internet e con i protocolli IP, rispetto a quello che era un tempo il controllo a distanza fatto con delle telecamere che controllavano o meno le persone che lavoravano. E bisogna adeguare quelle norme, davvero, alle nuove tecnologie. Un terzo problema enorme che abbiamo è quello della logistica. Allora, il problema vero per cui in Italia l'e-commerce è così poco diffuso è il fatto che abbiamo un enorme problema di logistica. Se voi andate in qualunque altro paese occidentale, negli Stati Uniti piuttosto che in Europa, e comprate un qualunque prodotto via internet, esso arriva in un giorno. In Italia purtroppo no, e questo è un problema pubblico-privato, un problema di sistema di trasporti, di gestione delle dogane, che è un altro problema enorme che noi abbiamo su internet, e che fa sì che le persone non comprano perché non sanno se il prodotto arriva e se non sanno la tempistica con quale esso arriva. Quindi secondo me sono tanti problemi, non ultimo quello che ha citato adesso Oscar Giannino, quello relativo alle soluzioni software per le imprese. Ora noi abbiamo un sistema di imprese fatto di piccole e di piccolissime imprese, che sono la nostra vera spina dorsale del nostro sistema economico, e abbiamo un'offerta di sistemi IT soprattutto organizzata sulla grandissima impresa. Le grandi aziende di informatica lavorano sui grandi sistemi. Abbiamo invece la necessità di ripensare allo sviluppo di sistemi problem solving per le piccole o per le piccolissime imprese, che invece hanno, non soltanto dal punto di vista dell'applicativo, ma soprattutto dal punto di vista dell'assistenza alla gestione del software, dei problemi molto grossi ancora di qualità e di efficienza. Direi che proprio poco posso dire, ma è un problema non soltanto italiano, il tema più critico nell'adozione di sistemi tecnologici basati su internet, sia per il privato che per il pubblico, il tema più critico è il software, è lo sviluppo di piattaforme che siano veramente affidabili, e questo è un altro grande tema. però in generale io credo che il problema sia quello, da un lato giustamente di fare le battaglie come quelle che il ministro Brunetta fa, ad esempio per i certificati, dall'altro però anche andare a vedere un po' bene quali sono la ricomposizione. Io ricordo, ero city manager al Comune di Milano nel 1997 e parlavamo con l'allora presidente dell'AIPA, l'autorità per l'informatica della pubblica amministrazione, Liborei, della carta d'identità elettronica, e facemmo come Comune di Milano il primo esperimento di carta d'identità elettronica. Ancora in Italia. Sì, siamo ancora fermi a quello. Ma perché? Perché, come il ministro Brunetta ci può raccontare, ci sono state enormi resistenze, esatto, nell'ambito del Dipartimento di Polizia, ci sono state enormi. Sì, le diverse amministrazioni in passato, perché stiamo parlando veramente di parecchi anni fa, oramai sono state molto fedeli difensore delle proprie prerogative. E alla fine, oltre che per questioni relative al poligrafico dello Stato, al bando di gara, chi perdeva a quel punto la titolarità della stampa, eccetera, eccetera, tutta quella bolla di documenti, non se ne è fatto nulla. Questa è l'amara verità ricordata da Parisi. Nell'ultima parte, dopo le informazioni sulla circolazione stradale che ci sono adesso, dovrete rispondere al volo a un bel po' di repliche, perché io c'ho un mucchio di ascoltatori e faremo qualche telefonata che dice: primo, ma quale digital divide coperto dovunque? Qui siamo a poche centinaia di kilobyte e non raccontiamo storie, qui non si può fare niente. Secondo, c'è chi dice: ma sì, la PEC non ha molto a che vedere, la PEC bisogna farla, certamente sì, ma non è né banda larga né ultralarga. Qui la questione è che mettere un video o fare il download del video è praticamente impossibile, e senza video e il più dei nuovi servizi non decollerà, e c'è la questione televisiva dietro. Insomma, le domande scottanti arrivano e rapidamente risponderete. Intanto strade. Eccoci tornati in studio, tre rapide telefonate. Cominciamo con Dino Bortolotto. Prego, Bortolotto. Buongiorno a tutti quanti, grazie per l'opportunità. Che è il presidente di Asso Provider, lo dico io prima. Esattamente. Allora, Giannino sa che ogni tanto gli scrivo. Allora, io immagino che se dopo 10 anni siamo ancora qui a dirci le stesse cose, forse c'è un problema di ricetta sbagliata per la soluzione. Forse il problema vero è che non abbiamo liberalizzato a sufficienza le TLC, perché quando Parisi parla di norme che lo ostacolano, io vorrei ricordare che ce ne sono alcune che ostacolano l'ingresso di nuovi imprenditori. Adesso, ad esempio, l'organizzazione dei contributi amministrativi dell'allegato 10, non si capisce perché debbano servire 55.000 euro anno per poter stendere un metro di fibra in una città con più di 200.000 abitanti, se non per frenare giovani imprenditori. Come non si capisce per la posta elettronica certificata come mai qualcuno abbia fissato un limite di capitale sociale minimo a 1 milione di euro per fare la PEC. Forse anche questo è un motivo per cui la PEC non decolla, o no? Cioè, io mi domando, esiste qualcosa di diverso? Possiamo immaginare che forse la NGN si può costruire in un modo completamente nuovo, perché l'80% del costo è di tipo edile, immobiliare. Cioè, fare i buchi e mettere i cavi. Esattamente. Ora, perché la parte immobiliare, che nulla ha a che fare con la commutazione, deve rimanere in capo agli operatori? Forse è il caso di dire che la parte immobiliare deve essere di pertinenza territoriale, deve essere degli utenti finali, deve essere dei proprietari immobiliari. Forse in questo modo libereremo una quantità enorme di capitali proprio per la crescita di questo paese. Fermo Bortolotto, perché questo è il punto su cui poi aspetto la risposta su CDP e la rete e la società con i players NGN. Sentiamo rapidissimamente Luca, che ci chiama dalla provincia di Firenze. Prego Luca. Luca, mi sente? No, è caduta la linea. Allora Marco da Roma, prego Marco. Buongiorno, il ministro Brunetta ha gentilmente osservato che sono rimasti sorpresi dal fatto che alcune imprese e molti cittadini che si sanno essere molto più alfabetizzati dal punto di vista delle comunicazioni non hanno sottoscritto la PEC con entusiasmo. Sarà mica il fatto anche, come diceva Bortolotto, che c'è qualche problemino in più? La PEC obbligatoria di Stato implica, e i cittadini e le imprese l'hanno capito, la non ripudiabilità dei messaggi. Allora, se la pubblica amministrazione avesse iniziato a rispondere alle email normali prima di imporre per legge l'uso di una PEC a cui l'impresa non può neanche far finta di non aver ricevuto una comunicazione perentoria, può darsi che avrebbe incontrato maggior favore. Chiarissima la domanda di Marco. Lei dice qui lo Stato in realtà non risponde quando l'ho interpellato, poi obbliga alla non repudiabilità dei messaggi. Che risponde, Ministro, sia a questo che riguarda la PEC, ma soprattutto anche agli ostacoli all'entrata, che forse spiegano perché poi i diversi tipi di players con diversi tipi di infrastrutture, in realtà fino a questo momento la quadra per una società comune, per investimenti, ciascuno per la propria parte, senza che lo Stato dica dove cosa devi fare, però con la prospettiva di avere più revenue condivise per tutti, non è decollato. Che dice, Ministro? Ma intanto distinguiamo tra PEC pubblica e PEC privata. Posta elettronica certificata pubblica è quella offerta a tutti i cittadini gratuitamente, e quindi da questo punto di vista noi l'abbiamo fatto, abbiamo avuto un riscontro positivo, anche se non eccezionale, perché il valore di questa PEC, che è simile a quello di una raccomandata ricevuta di ritorno e che impone la riconoscibilità assoluta del titolare, cioè il fatto che per ritirarla bisogna presentare un documento e così via, ha frenato un po' il processo. Dico però, faccio un esempio, che i 250.000-350.000 insegnanti supplenti da quest'anno useranno la posta elettronica certificata per concludere i loro contratti con le scuole, per avere la comunicazione con le loro scuole della supplenza domani piuttosto, certo, che dopodomani e così via. Allora la riflessione che io faccio è: se c'è un uso finalizzato della PEC, la PEC si espande velocissimamente, e cioè per fare un concorso, per avere il proprio contratto di supplenza, per fare una domanda di una concessione edilizia, eccetera, eccetera. In astratto, ecco, questa è la cosa che ho imparato, in astratto, se uno dice prenditi la PEC e poi non si sa cosa potrei farne, ecco, in astratto il cittadino non risponde. Sì. Altra cosa è la PEC per le imprese. Beh, questa è obbligatoria per le imprese nuove, è già obbligatoria per le imprese già nate, è obbligatoria alla fine di quest'anno, e lì ci sono vari operatori. Bisognava mettere qualche regola per ovviamente offrire questa PEC da parte delle imprese. Un milione, non lo so, va bene, non va bene, però una qualche regola è stata fatta. Non mi pare che questo sia stato il problema. Il problema è un problema culturale, è un problema organizzativo, è un problema di dispersione del sistema delle imprese. Noi, ricordo Giannino, noi abbiamo l'e-commerce molto basso semplicemente perché abbiamo un sistema distributivo assolutamente disperso, parcellizzato. Allora, grazie Ministro, io chiedo proprio rapidissimo a Parisi un ultimo intervento. Questi ostacoli ci sono ancora a tutela degli operatori, come dice qualcuno? Ma no, siamo un paese in cui la concorrenza nelle TLC è sicuramente, le TLC sono il settore in cui c'è maggiore concorrenza. Le infrastrutture, il costo delle infrastrutture, noi abbiamo davanti a noi 10 miliardi minimo di investimento da fare, e la finanza pubblica, per rispondere anche al tema della Cassa Depositi e Prestiti, non può fare questi investimenti. Non ci sono gli enti locali che possono fare gli scavi, non hanno i soldi, non abbiamo i soldi, dobbiamo farlo con il privato. Siccome è un investimento ed è provato che ha un buon ritorno di lungo periodo, che è un buon ritorno di lungo periodo, in questo momento si sta vendendo Metroweb, che è l'azienda fondata da Fastweb 10 anni fa per l'infrastruttura su Milano, e c'è la fila di fondi infrastrutturali che vogliono comprare Metroweb. Quindi noi diciamo che la Cassa Depositi e Prestiti può svolgere questa funzione da finanziatore senza impattare sulle casse dello Stato, sui saldi di finanza pubblica, può finanziare da finanziatore, e sarà un buon investimento, perché quando poi la Cassa Depositi e Prestiti rivenderà a Telecom Italia questa rete in fibra, una volta finita, farà pacchi di 4 anni, avrà un ritorno all'investimento fantastico. Voglio però soltanto ricordare che, a proposito di territorio, di democrazia e di cui si parla, noi abbiamo fatto nel quartiere Fleming, Fasto, Vodafone e Wind, a Roma, la più avanzata rete di in fibra, punto punto, riuscendo a coprire più di 4.000 abitazioni, siamo riusciti a collegarne soltanto qualche centinaia, perché gli amministratori dei condomini, esatto, non ci fanno entrare per mettere la fibra. E questa è la dimostrazione ancora di quanto ci siano ostacoli che non dipendono dagli operatori. Comunque noi torneremo su questo punto della società condivisa, per così dire, la scommessa che i grandi players capiscano che c'è un mercato nuovo che non deve far rifermare solo all'ammortamento ciascuno dell'investimento fatto sul proprio pezzo, si chiami rame o si chiami fibra, ce n'è per tutti. Questa è la grande cosa per avere ultralarga presto, al più rapidamente, per tutti e non solo per pochi centri urbani in Italia. Grazie a Renato Brunetta, grazie a Stefano Parisi, sono in ritardissimo, Lina Generale Radio, a domani.